Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Giugno. Sabato 3. Domani è la festa nazionale. Lettera. Garibaldi. Oggi è un lutto nazionale. Ieri sera è morto Garibaldi. Sai chi era? È quello che affrancò 10 milioni di italiani dalla tirannia dei Borboni. È morto a 75 anni. Era nato a Nizza, figliuolo di un capitano di bastimento. A 8 anni salvò la vita a una donna. A 13 tirò a salvamento una barca piena di compagni che naufragavano. A 27 trasse dalle acque di Marsiglia un giovanetto che s'annegava. A 41 scampò un bastimento dall'incendio sull'oceano. Egli combatté 10 anni in America per la libertà d'un popolo straniero. Combatté in 3 guerre contro gli austriaci per la liberazione della Lombardia e del Trentino. Difese Roma dai francesi nel 1849. Liberò Palermo e Napoli nel 1860. Ricombatté per Roma nel 67. Lottò nel 1870 contro i tedeschi in difesa della Francia. Egli aveva la fiamma dell'eroismo e il genio della guerra. Combatté in 40 combattimenti e ne vinse 37. Quando non combatté, lavorò per vivere o si chiuse in un'isola solitaria a coltivare la terra. Egli fu maestro, marinaio, operaio, negoziante, soldato, generale, dittatore. Era grande, semplice e buono. Odiava tutti gli oppressori, amava tutti i popoli, proteggeva tutti i deboli, non aveva altra aspirazione che il bene. Rifiutava gli onori, disprezzava la morte, adorava l'Italia. Quando gettava un grido di guerra, legioni di valorosi accorrevano a lui da ogni parte. Signori lasciavano i palazzi, operai le officine, giovanetti le scuole per andare a combattere al sole della sua gloria. In guerra portava una camicia rossa. Era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo. 1000 italiani son morti per la patria, felici, morendo di vederlo passar da lontano vittorioso. Migliaia si sarebbero fatti uccidere per lui. Milioni lo benedissero e lo benediranno. È morto. Il mondo intero lo piange. Tu non comprendi per ora, ma leggerai le sue gesta. Udrai parlar di lui continuamente nella vita. E via via che crescerai, la sua immagine crescerà pure davanti a te. Quando sarai un uomo, lo vedrai gigante. E quando non sarai più al mondo tu, quando non vivranno più i figli dei tuoi figli e quelli che saranno nati da loro, ancora le generazioni vedranno in alto la sua testa luminosa di redentore di popoli, coronata dai nomi delle sue vittorie, come da un cerchio di stelle, e ad ogni italiano risplenderà la fronte e l'anima pronunziando il suo nome. Firmato tuo padre. Domenica 11, festa nazionale, ritardata di 7 giorni per la morte di Garibaldi. L'esercito. Siamo andati in piazza Castello a vedere la rassegna dei soldati che sfilavano davanti al comandante del corpo d'esercito, in mezzo a 2 grandi ali di popolo. Via via che sfilavano, al suono delle fanfare e delle bande, mio padre mi accennava i corpi e le glorie delle bandiere. Primi gli allievi ufficiali dell'Accademia, quelli che saranno ufficiali del genio e dell'artiglieria, circa 300, vestiti di nero, passarono con una eleganza ardita e sciolta di soldati e di studenti. Dopo di loro sfilò la fanteria, la brigata Aosta che combatté a Goito e a San Martino e la brigata Bergamo che combatté a Castelfidardo. 4 reggimenti, compagnie dietro compagnie, migliaia di nappine rosse, che parevan tante doppie ghirlande lunghissime di fior colore di sangue, tese e scosse pei 2 capi e portate attraverso alla folla. Dopo una fanteria s'avanzarono i soldati del genio, gli operai della guerra, coi pennacchi di crini neri e galloni cremisi. E mentre questi sfilavano, si vedevan venire innanzi dietro di loro centinaia di lunghe penne diritte, che sorpassavano le teste degli spettatori. Erano gli alpini, i difensori delle porte d'Italia, tutti alti, rosei e forti, coi cappelli alla calabrese e le mostre di un bel verde vivo, color dell'erba delle loro montagne. Sfilavano ancor gli alpini, che corse un fremito nella folla. E i bersaglieri, l'antico dodicesimo battaglione, i primi che entrarono in Roma per la breccia di Porta Pia, bruni, lesti, vivi, coi pennacchi sventolanti, passarono come un'ondata d'un torrente nero, facendo echeggiare la piazza di squilli acuti di tromba che sembravan grida d'allegrezza. Ma la loro fanfara fu coperta da uno strepito rotto e cupo che annunziò l'artiglieria di campagna, e allora passarono superbamente, seduti sugli alti cassoni, tirati da 300 coppie di cavalli impetuosi, i bei soldati dai cordoni gialli e i lunghi cannoni di bronzo e d'acciaio, scintillanti sugli affusti leggeri, che saltavano e risuonavano, e ne tremava la terra. E poi venne su lenta, grave, bella nella sua apparenza faticosa e rude, coi suoi grandi soldati, coi suoi muli potenti, l'artiglieria di montagna, che porta lo sgomento e la morte fin dove sale il piede dell'uomo. E infine passò di galoppo, con gli elmi al sole, con le lance erette, con le bandiere al vento, sfavillando d'argento e d'oro, empiendo l'aria di tintinnii e di nitriti, il bel reggimento Genova Cavalleria, che turbinò su 10 campi di battaglia, da Santa Lucia a Villafranca. «Come è bello!» io esclamai, ma mio padre mi fece quasi un rimprovero di quella parola, e mi disse: «Non considerare l'esercito come bello spettacolo. Tutti questi giovani pieni di forze e di speranze possono da un giorno all'altro essere chiamati a difendere il nostro paese e in poche ore essere sfracellati tutti dalle palle e dalle mitraglia. Ogni volta che senti gridare in una festa «Viva l'esercito! Viva l'Italia!» raffigurati di là dai reggimenti che passano una campagna coperta di cadaveri e allagata di sangue. E allora l'evviva dell'esercito t'escirà più dal profondo del cuore e l'immagine dell'Italia t'apparirà più severa e più grande». Martedì 14. Lettera. Italia. Salutala così la patria nei giorni delle sue feste. Italia, patria mia, nobile e cara terra, dove mio padre e mia madre nacquero e saranno sepolti, dove io spero di vivere e di morire, dove i miei figli cresceranno e morranno. Bella Italia, grande e gloriosa da molti secoli, unita e libera da pochi anni, che spargesti tanta luce di intelletti divini sul mondo e per cui tanti valori morirono sui campi e tanti eroi sui patiboli, madre augusta di 300 città e 30 milioni di figli, io, fanciullo, che ancora non ti comprendo e non ti conosco intera, io ti venero e t'amo con tutta l'anima mia e sono altero d'esser nato da te e di chiamarmi figliuol tuo. Amo i tuoi mari splendidi e le tue Alpi sublimi. Amo i tuoi monumenti solenni e le tue memorie immortali. Amo la tua gloria e la tua bellezza. T'amo e ti venero tutta come quella parte diletta di te dove per la prima volta vidi il sole e intesi il tuo nome. V'amo tutte di un solo affetto e con pari gratitudine. Torino valorosa, Genova superba, dotta Bologna, Venezia incantevole, Milano possente, v'amo con egual reverenza di figlio, Firenze gentile e Palermo terribile, Napoli immensa e bella, Roma meravigliosa ed eterna. Ti amo, patria sacra, e ti giuro che amerò tutti i figli tuoi come fratelli, che onorerò sempre in cuor mio i tuoi grandi vivi e i tuoi grandi morti, che sarò un cittadino operoso ed onesto, inteso costantemente a nobilitarmi, per rendermi degno di te, per giovare con le mie minime forze a far sì che spariscano un giorno dalla tua faccia la miseria, l'ignoranza, l'ingiustizia, il delitto, e che tu possa vivere ed espanderti tranquilla nella maestà del tuo diritto e della tua forza. giuro che ti servirò come mi sarà concesso, con l'ingegno, con il braccio, col cuore, umilmente e arditamente, e che se verrà un giorno in cui dovrò dare per te il mio sangue e la mia vita, darò il mio sangue e morrò, gridando al cielo il tuo santo nome e mandando l'ultimo bacio alla tua bandiera benedetta. Firmato tuo padre. Venerdì 16, 32 gradi. In 5 giorni che passarono dalla festa nazionale, il caldo è cresciuto di 3 gradi. Ora siamo in piena estate. Tutti cominciano a essere stanchi. Hanno tutti perduto i bei colori rosati della primavera. I colli e le gambe si assottigliano, le teste ciondolano e gli occhi si chiudono. Il povero Nelli, che patisce molto il caldo e ha fatto un viso di cera, s'addormenta qualche volta profondamente, col capo sul quaderno. Ma Garrone sta sempre attento a mettergli davanti un libro aperto e ritto perché il maestro non lo veda. Crossi appoggia la sua zucca rossa sul banco in un certo modo che par distaccata dal busto e messa lì. Nobis si lamenta che ci siamo troppi e che gli guastiamo l'aria. Ah, che forza bisogna farsi ora per studiare! Io guardo dalle finestre di casa mia quei begli alberi che fanno un'ombra così scura, dove andrei a correre tanto volentieri e mi vien tristezza e rabbia di dovermi andare a chiudere tra i banchi. Ma poi mi fo animo a veder la mia buona madre che mi guarda sempre quando esco dalla scuola per veder se son pallido e mi dice a ogni pagina di lavoro «Ti senti ancora?» e ogni mattina alle 6, svegliandomi per la lezione «Coraggio, non ci son più che tanti giorni, poi sarai libero e riposerai, andrai all'ombra dei viali». Sì, essa ha ben ragione a rammentarmi i ragazzi che lavorano nei campi sotto la sferza del sole o tra le ghiaie bianche dei fiumi, che accecano e scottano, e quelli delle fabbriche di vetro, che stanno tutto il giorno immobili, col viso chinato sopra una fiamma di gas, e si levano tutti più presto di noi e non hanno vacanze. Coraggio, dunque, e anche in questo è il primo di tutti De Rossi, che non soffre né caldo né sonno, vivo sempre, allegro, coi suoi riccioli biondi, com'era d'inverno, e studia senza fatica e tien desti tutti intorno a sé, come se rinfrescasse l'aria con la sua voce. E ci sono due altri pure, sempre svegli e attenti. Quel cocciuto di Stardi, che si punge il muso per non addormentarsi, e quando più è stanco e più fa caldo, tanto più stringe i denti e spalanca gli occhi, che par che si voglia mangiare il maestro, e quel trafficone di Garoffi, tutto affaccendato a fabbricare ventagli di carta rossa ornati con figurine di scatole di fiammiferi, che vende a 2 centesimi l'uno. Ma il più bravo è Coretti, povero Coretti, che si leva alle 5 per aiutare suo padre a portar legna. Alle 11 nella scuola non può più tener gli occhi aperti e gli casca il capo sul petto, e non di meno si riscuote, si dà delle manate nella nuca, domanda il permesso di uscire per lavarsi il viso, si fa scrollare e pizzicottare dai vicini, ma tanto questa mattina non poté reggere e s'addormentò ad un sonno di piombo. Il maestro lo chiamò forte: «Coretti!» Egli non sentì. Il maestro, irritato, ripeté: «Coretti!» Allora il figliuolo del carbonaio, che gli sta accanto di casa, s'alzò e disse: «Ha lavorato dalle 5 alle 7 per portar fascine». Il maestro lo lasciò dormire e continuò a far lezione per una mezz'ora. Poi andò al banco da Coretti e piano piano, soffiandogli nel viso, lo svegliò. A vedersi davanti il maestro si fece indietro impaurito, ma il maestro gli prese il capo fra le mani e gli disse, baciandolo sui capelli: «Non ti rimprovero, figliol mio, non è mica il sonno della pigrizia il tuo, è il sonno della fatica». Sabato 17. Lettera. Mio padre. Non certo il tuo compagno Coretti né Garrone risponderebbero mai al loro padre come tu hai risposto al tuo questa sera. Enrico, com'è possibile? Tu mi devi giurare che questo non accadrà mai più, finch'io viva. Ogni volta che a un rimprovero di tuo padre ti correrà una cattiva risposta alle labbra, pensa a quel giorno, che verrà immancabilmente, quando egli ti chiamerà al suo letto per dirti: «Enrico, io ti lascio». Oh, figliuol mio, quando sentirai la sua voce per l'ultima volta, e anche molto tempo dopo, quando piangerai solo nella sua stanza abbandonata, in mezzo a quei libri che egli non aprirà mai più, allora, ricordandoti d'avergli mancato qualche volta di rispetto, ti domanderai tu pure: «Com'è possibile?». Allora capirai che egli è sempre stato il tuo migliore amico, che quando era costretto a punirti ne soffriva più di te, e che non t'ha mai fatto piangere che per farti del bene. E allora ti pentirai e bacerai piangendo quel tavolino su cui ha tanto lavorato, su cui si è logorata la vita per i suoi figliuoli. Ora non capisci, egli ti nasconde tutto di sé fuorché la sua bontà e il suo amore. Tu non lo sai che qualche volta egli è così affranto dalla fatica che crede di non aver più che pochi giorni da vivere, e che in quei momenti non parla che di te, non ha altro affanno in cuore che quello di lasciarti povero e senza protezione. E quante volte, pensando a questo, entra nella tua camera mentre dormi e sta là col lume in mano a guardarti, e poi fa uno sforzo e, stanco e triste com'è, torna al lavoro. E neppure sai che spesso egli ti cerca e sta con te, perché ha un'amarezza nel cuore, dei dispiaceri che a tutti gli uomini toccano nel mondo, e cerca te come un amico per confortarsi e dimenticare, e ha bisogno di rifugiarsi nel tuo affetto per ritrovare la serenità e il coraggio. Pensa dunque che dolore deve essere per lui quando invece di trovare affetto in te trova freddezza e irriverenza. Non macchiarti mai più di questa orribile ingratitudine. Pensa che se anche fossi buono come un santo, non potresti mai compensarlo abbastanza di quello che ha fatto e fa continuamente per te. E pensa anche, sulla vita non si può contare. Una disgrazia ti potrebbe togliere tuo padre mentre sei ancora ragazzo. Fra 2 anni, fra 3 mesi, domani. Ah, povero Enrico mio! Come vedresti cambiare tutto intorno a te allora? Come ti parrebbe vuota, desolata la casa, con la tua povera madre, vestita di nero? Va, figliuolo, va da tuo padre. Egli è nella sua stanza che lavora. Va in punta di piedi, che non ti senta entrare. Va a metterti là, fronte sulle sue ginocchia, e a dirgli che ti perdoni e ti benedica. Firmato, tua madre. Lunedì 19. In campagna. Il mio buon padre mi perdonò anche questa volta e mi lasciò andare alla scampagnata che si era combinata mercoledì col padre di Coretti, il rivenditor di legna. Ne avevamo tutti bisogno d'una boccata d'aria di collina. Fu una festa. Ci trovammo ieri alle 2 in piazza dello Statuto, De Rossi, Garrone, Garoffi, Precossi, padre e figlio Coretti ed io, con le nostre provviste di frutta, di salsicciotti e d'ova sode. Avevamo anche delle barchette di cuoio e dei bicchieri di latta. Garrone portava una zucca con dentro del vino bianco. Coretti, la fiaschetta da soldato di suo padre, piena di vin nero. E il piccolo Precossi, col suo camiciotto di fabbro ferraio, teneva sotto il braccio una pagnotta di 2 chilogrammi. S'andrò in omnibus fino alla Gran Madre di Dio, e poi su, alla Lesta, per i colli. C'era un verde, un'ombra, un fresco. Andavamo rivoltoni nell'erba. Mettevamo il viso nei rigagnoli, saltavamo attraverso alle siepi. Coretti padre ci seguiva di lontano, con la giacchetta sulle spalle, fumando con la sua pipa di gesso, e di tanto in tanto ci minacciava con la mano che non facessimo delle buche nei calzoni. Precossi zufolava. Non l'avevo mai sentito zufolare. Coretti figlio faceva di tutto strada facendo. Sa far di tutto quell'ometto lì, col suo coltelluccio a cricco, lungo un dito, delle rotine da molino, delle forchette, degli schizzatoi, e voleva portar la roba degli altri. Era carico che grondava sudore, ma sempre svelto come un capriolo. De Rossi si fermava ogni momento per dirci i nomi delle piante e degli insetti. Io non so come faccia a saper tante cose. E Garrone mangiava del pane, in silenzio, ma non ci attaccava mica più quei morsi allegri d'una volta, povero Garrone, dopo che ha perduto sua madre. È sempre lui, però, buono come il pane. Quando uno di noi pigliava la rincorsa per saltare un fosso, egli correva dall'altra parte a tendergli le mani. E perché Precossi aveva paura delle vacche, che da piccolo è stato cozzato, ogni volta che ne passava una, Garrone gli si parava davanti. Andammo su fino a Santa Margherita e poi giù per le chine a salti, a rotoloni, a scortica mele. Precossi, inciampando in un cespuglio, si fece uno strappo al camiciotto e restò lì vergognoso col suo brindello ciondoloni. Ma Garoffi, che ha sempre degli spilli nella giacchetta, glielo appuntò che non si vedeva, mentre quegli badava a dirgli «scusami, scusami», e poi ricominciò a correre. Garoffi non perdeva il suo tempo per via, coglieva delle erbe da insalata, delle lumache e ogni pietra che luccicasse un po' se la metteva in tasca, pensando che ci fosse dentro dell'oro o dell'argento. E avanti a correre, a ruzzolare, arrampicarsi all'ombra e al sole, su e giù per tutti i rialzi e le scorciatoie, finché arrivammo scalmanati e sfiatati sulla cima d'una collina, dove ci sedemmo a far merenda sull'erba. Si vedeva una pianura immensa e tutte le Alpi azzurre con le cime bianche. Morivamo tutti di fame, il pane pareva che fondesse. Coretti padre ci porgeva le porzioni di salsicciotto su delle foglie di zucca. E allora cominciammo a parlare tutti insieme, dei maestri, dei compagni, che non avevano potuto venire, e degli esami. Precossi si vergognava un poco a mangiare, e Garrone gli ficcava in bocca il meglio della sua parte, di viva forza. Coretti era seduto accanto a suo padre, con le gambe incrociate. Parevano piuttosto due fratelli, che padre e figlio, a vederli così vicini, tutti e due rossi e sorridenti, con quei denti bianchi. Il padre trincava con gusto, vuotava anche le barchette e i bicchieri che noi lasciavamo ammezzati, e diceva «A voi altri che studiate, il vino fa male, sono i rivenditori di legna che n'han bisogno». Poi pigliava e scoteva per il naso il figliuolo, dicendoci «Ragazzi, vogliate bene a questo qui, che è un fior di galantuomo, son io che ve lo dico». E tutti ridevano, fuorché Garrone, ed egli seguitava trincando. «Peccato, eh? Ora siete tutti insieme da bravi camerati, e fra qualche anno, chissà, Enrico e De Rossi saranno avvocati o professori, o che so io, e voi altri quattro in bottega o a un mestiere, o chissà diavolo dove. E allora buonanotte, camerati». «Che?» rispose De Rossi. «Per me Garrone sarà sempre Garrone, Precossi sarà sempre Precossi, e gli altri lo stesso, diventassi imperatore delle Russie. Dove saranno loro, andrò io». «Benedetto!» esclamò Coretti padre, alzando la fiaschetta. «Così si parla, sagrestia! Toccate qua! Viva i bravi compagni, e viva anche la scuola, che vi fa una sola famiglia, quelli che ne hanno e quelli che non ne hanno!» Noi toccammo tutti la sua fiaschetta con le barchette e i bicchieri, e bevemmo l'ultima volta. E lui «Viva il quadrato del 49!» gridò, levandosi in piedi e cacciando giù l'ultimo sorso. «E se avreste da far dei quadrati anche voi, badate di tener duro come noi altri, ragazzi!» Era già tardi. Scendemmo correndo e cantando e camminando per lunghi tratti tutti a braccetto, e arrivammo sul Po che imbruniva e volavano migliaia di lucciole. E non ci separammo che in piazza dello Statuto, dopo aver combinato di trovarci tutti insieme domenica per andare al Vittorio Emanuele a veder la distribuzione dei premi degli alunni delle scuole serali. Che bella giornata! Come sarei rientrato in casa contento se non avessi incontrato la mia povera maestra. La incontrai che scendeva le scale di casa nostra, quasi al buio, e appena mi riconobbe, mi prese per tutte e due le mani e mi disse all'orecchio «Addio, Enrico, ricordati di me!» M'accorsi che piangeva. Salii e lo dissi a mia madre. ho incontrato la mia maestra. Andava a mettersi a letto, mi rispose mia madre, che aveva gli occhi rossi. E poi soggiunse con grande tristezza, guardandomi fisso: la tua povera maestra sta molto male. Domenica 25. La distribuzione dei premi agli operai. Come avevamo convenuto, andammo tutti insieme al teatro Vittorio Emanuele a vedere la distribuzione dei premi agli operai. Il teatro era addobbato come il 14 marzo e affollato, ma quasi tutto di famiglie di operai, e la platea occupata dagli allievi e dalle allieve della scuola di canto corale, i quali cantarono un inno ai soldati morti in Crimea, così bello che, quando fu finito, tutti s'alzarono battendo le mani e gridando, e lo dovettero cantare da capo. E subito dopo cominciarono a sfilare i premiati davanti al sindaco, al prefetto e a molti altri, che davano libri, libretti della cassa di risparmio, diplomi e medaglie. In un canto della platea vidi il muratorino, seduto accanto a sua madre, e da un'altra parte c'era il direttore, e dietro di lui la testa rossa del mio maestro di seconda. Sfilarono per primi gli alunni delle scuole serali di disegno, orefici, scalpellini, litografi e anche dei falegnami e dei muratori, poi quelli della scuola di commercio, poi quelli del liceo musicale, fra cui parecchie ragazze, delle operaie, tutte vestite in gala, che furono salutate con un grande applauso e ridevano. Infine vennero gli alunni delle scuole serali elementari e allora cominciò a esser bello a vedere. Di tutte le età ne passavano, di tutti i mestieri, e vestiti in tutti i modi, uomini coi capelli grigi, ragazzi degli opifici, operai con grandi barbe nere. I piccoli erano disinvolti, gli uomini un po' imbarazzati. La gente batteva le mani ai più vecchi e ai più giovani, ma nessuno rideva fra gli spettatori come facevano alla nostra festa. Si vedevano tutti i visi attenti e seri. Molti dei premiati avevano la moglie e i figliuoli in platea, e c'erano dei bambini che quando vedevano passare il padre sul palcoscenico lo chiamavano per nome a voce alta e lo segnavano con la mano, ridendo forte. Passarono dei contadini, dei facchini. Questi erano della scuola Boncompagni. Della scuola della cittadella passò un lustrascarpe che mio padre conosce e il prefetto gli diede un diploma. Dopo di lui vedo venire un uomo grande come un gigante che mi pareva d'aver già veduto altre volte. Era il padre del muratorino che prendeva il secondo premio. Mi ricordai di quando l'avevo visto nella soffitta, al letto del figliuolo malato, e cercai subito il figliuolo in platea, povero muratorino. Egli guardava suo padre con gli occhi luccicanti e per nasconder la commozione faceva il muso di lepre. In quel momento sentii uno scoppio d'applausi. Guardai sul palco. C'era un piccolo spazzacamino, col viso lavato, coi suoi panni da lavoro, e il sindaco gli parlava tenendolo per una mano. Dopo lo spazzacamino venne un cuoco, poi passò a prendere la medaglia uno spazzino municipale della scuola Raineri. Io mi sentivo non so che cosa nel cuore, come un grande affetto e un grande rispetto, a pensare quanto erano costati quei premi a tutti quei lavoratori, padri di famiglia, pieni di pensieri, quante fatiche aggiunte alle loro fatiche, quante ore tolte al sonno, di cui hanno tanto bisogno, e anche quanti sforzi di intelligenza non abituata allo studio, e delle mani grosse, intozzite dal lavoro. Passò un ragazzo d'officina, a cui si vedeva che suo padre aveva imprestata la giacchetta per l'occasione, e gli penzolavano le maniche, tanto che se le dovette rimboccare lì sul palco, per poter prendere il suo premio. E molti risero, ma il riso fu subito soffocato dai battimani. Dopo venne un vecchio con la testa calva e la barba bianca. Passarono dei soldati d'artiglieria, di quelli che venivano alla scuola serale nella nostra sezione. Poi delle guardie daziarie, delle guardie municipali, di quelle che fanno la guardia alle nostre scuole. Infine gli allievi della scuola serale cantarono ancora l'inno ai morti in Crimea, ma con tanto slancio questa volta, con una forza d'affetto che veniva così schietta dal cuore, che la gente non applaudì quasi più e usciron tutti commossi, lentamente e senza far chiasso. In pochi momenti tutta la via fu affollata. Davanti alla porta del teatro c'era lo spazzacamino, col suo libro di premio legato in rosso, e tutt'intorno dei signori che gli parlavano. Molti si salutavano da una parte all'altra della strada, operai, ragazzi, guardie, maestri. Il mio maestro di seconda uscì in mezzo a due soldati d'artiglieria e si vedevano delle mogli d'operai coi bambini in braccio, i quali tenevano nelle manine il diploma del padre e lo mostravano alla gente, superbi. Martedì 27. La mia maestra morta. Mentre noi eravamo al teatro Vittorio Emanuele, la mia povera maestra moriva. È morta alle 2, 7 giorni dopo che era stata a trovar mia madre. Il direttore venne ieri mattina a darcele l'annunzio nella scuola e disse: quelli di voi che furono suoi alunni sanno quanto era buona, quanto voleva bene ai ragazzi, era una madre per loro. Ora non c'è più. Una malattia terribile la consumava da molto tempo. Se non avesse avuto da lavorare per guadagnarsi il pane, avrebbe potuto curarsi e forse guarire. Si sarebbe almeno prolungata la vita di qualche mese, se avesse preso un congedo. Ma essa volle stare coi suoi ragazzi fino all'ultimo giorno. La sera di sabato, 17, s'accomiatò da loro, con la certezza di non rivederli più. Diede ancora dei buoni consigli, li baciò tutti e se ne andò singhiozzando. Ora nessuno la rivedrà mai più. Ricordatevi di lei, figliuoli. Il piccolo Precossi, che era stato suo scolaro nella prima superiore, chinò la testa sul banco e si mise a piangere. Ieri sera, dopo la scuola, andammo tutti insieme alla casa della morta per accompagnarla alla chiesa. C'era già nella strada un carro mortuario con due cavalli e molta gente che aspettava, parlando a bassa voce. C'era il direttore, tutti i maestri e le maestre della nostra scuola e anche d'altre sezioni dove essa aveva insegnato anni addietro. C'erano quasi tutti i bambini della sua classe, condotti per mano dalle madri che portavano le torce, e moltissimi d'altre classi, e una cinquantina d'alunne della sezione Baretti, chi con corone in mano, chi con mazzetti di rose. Molti mazzi di fiori li avevano già messi sul carro, al quale era appesa una corona grande, di gaggè, con su scritto in caratteri neri: alla loro maestra, le antiche alunne di quarta. E sotto la corona grande ce n'era appesa una piccola, che avevan portata i suoi bambini. Si vedevano tra la folla molte donne di servizio, mandate dal padrone, con le candele, e anche due servitori in livrea, con una torcia accesa. E un signore ricco, padre d'uno scolaro della maestra, aveva fatto venir la sua carrozza, foderata di seta azzurra. Tutti s'accalcavano davanti alla porta. C'erano parecchie ragazze che s'asciugavan le lacrime. Aspettammo un pezzo in silenzio. Finalmente portaron giù la cassa. Quando videro a infilare la cassa dentro al carro, alcuni bambini si misero a piangere forte e uno cominciò a gridare come se capisse soltanto allora che la sua maestra era morta, e gli prese un singhiozzo così convulso che dovettero portarlo via. La processione si mise in ordine lentamente e si mosse. Andavan prima le figlie del rito della Concezione, vestite di verde, poi le figlie di Maria, tutte bianche, con un nastro azzurro, poi i preti, e dietro al carro i maestri e le maestre, gli scolaretti della prima superiore e tutti gli altri, e infine la folla. La gente s'affacciava alle finestre e sugli usci, e a veder tutti quei ragazzi e la corona dicevano: è una maestra. Anche delle signore che accompagnavano i più piccoli, ce n'erano alcune che piangevano. Arrivati che furono alla chiesa, levaron la cassa dal carro e la portarono in mezzo alla navata, davanti all'altar maggiore. Le maestre ci misero su le corone. I bambini la copersero di fiori e la gente tutt'intorno, con le candele accese, cominciò a cantare le preghiere nella chiesa grande e oscura. Poi, tutt'a un tratto, quando il prete disse l'ultimo amen, le candele si spensero e tutti uscirono in fretta e la maestra rimase sola. Povera maestra, tanto buona con me, che aveva tanta pazienza, che aveva faticato per tanti anni. Essa ha lasciato i suoi pochi libri ai suoi scolari, a uno il calamaio, a un altro un quadretto, tutto quello che possedeva. E 2 giorni prima di morire disse al direttore che non ci lasciasse andare i più piccoli al suo accompagnamento, perché non voleva che piangessero. Ha fatto del bene, ha sofferto, è morta. Povera maestra, rimasta sola nella chiesa oscura. Addio, addio per sempre, mia buona amica, dolce e triste ricordo della mia infanzia. Mercoledì 28. Grazie. Ha voluto finire il suo anno di scuola la mia povera maestra. Se n'è andata 3 soli giorni prima che terminassero le lezioni. Dopodomani andremo ancora una volta in classe a sentir leggere l'ultimo racconto mensile, Naufragio, e poi finito. Sabato, 1° di luglio, gli esami. Un altro anno, dunque, il quarto, è passato. E se non fosse morta la mia maestra, sarebbe passato bene. Io ripenso a quello che sapevo l'ottobre scorso e mi par di sapere assai di più. Ci ho tante cose nuove nella mente. Riesco a dire e a scrivere meglio d'allora quello che penso. Potrei anche fare di conto per molti grandi che non sanno e aiutarli nei loro affari. E capisco molto di più. Capisco quasi tutto quello che leggo. Sono contento. Ma quanti m'hanno spinto e aiutato a imparare? Chi in un modo, chi in un altro, a casa, alla scuola, per la strada, dappertutto dove sono andato e dove ho visto qualche cosa. Ed io ringrazio tutti ora. Ringrazio te per il primo, mio buon maestro, che sei stato così indulgente e affettuoso con me, e per cui fu una fatica ogni cognizione nuova di cui ora mi rallegro e mi vanto. Ringrazio te, De Rossi, mio amabile compagno, che con le tue spiegazioni pronte e gentili m'hai fatto capire tante volte delle cose difficili e superare degli intoppi agli esami. E a te pure, Stardi, bravo e forte, che m'hai mostrato come una volontà di ferro riesca a tutto. E te, Garrone, buono e generoso, che fai generosi e buoni tutti quelli che ti conoscono. E anche voi, Precossi e Coretti, che m'avete sempre dato l'esempio del coraggio nei patimenti e nella serenità del lavoro. Dico grazie a voi, dico grazie a tutti gli altri. Ma soprattutto ringrazio te, padre mio, te, mio primo maestro, mio primo amico, che m'hai dato tanti buoni consigli e insegnato tante cose, mentre lavoravi per me, nascondendomi sempre le tue tristezze e cercando in tutte le maniere di rendermi lo studio facile e la vita bella. E te, dolce madre mia, mio angelo custode, amato e benedetto, che hai goduto di tutte le mie gioie e sofferto di tutte le mie amarezze, che hai studiato, faticato, pianto con me, carezzandomi con una mano la fronte e con l'altra indicandomi il cielo. Io mi inginocchio davanti a voi, come quando ero bambino, e vi ringrazio. Vi ringrazio con tutta la tenerezza che mi avete messo nell'anima in 12 anni di sacrificio ed amore. Ultimo racconto mensile. Naufragio. Parecchi anni or sono, una mattina del mese di dicembre, salpava dal porto di Liverpool un grande bastimento a vapore che portava a bordo più di 200 persone, fra le quali 70 uomini d'equipaggio. Il capitano e quasi tutti i marinai erano inglesi. Fra i passeggeri si trovavano vari italiani. 3 signore, un prete, una compagnia di suonatori. Il bastimento doveva andare all'isola di Malta. Il tempo era oscuro. In mezzo ai viaggiatori della terza classe, a prua, c'era un ragazzo italiano d'una 12 anni, piccolo per l'età sua, ma robusto. Un bel viso ardimentoso e severo di siciliano. Se ne stava solo vicino all'albero di trinchetto, seduto sopra un mucchio di corde, accanto a una valigia logora che conteneva la sua roba e su cui teneva una mano. Aveva il viso bruno e i capelli neri e ondulati che gli scendevan quasi sulle spalle. Era vestito meschinamente, con una coperta lacera sopra le spalle e una vecchia borsa di cuoio a tracolla. Guardava intorno a sé, pensieroso, i passeggeri, il bastimento, i marinai che passavan correndo e il mare inquieto. Aveva l'aspetto di un ragazzo uscito di fresco da una grande disgrazia di famiglia, il viso d'un fanciullo, l'espressione d'un uomo. Poco dopo la partenza, uno dei marinai del bastimento, un italiano, coi capelli grigi, comparve a prua conducendo per mano una ragazzina e fermandosi davanti al piccolo siciliano. Gli disse: «Eccoti una compagna di viaggio, Mario». E poi se n'andò. La ragazza stette sul mucchio di corde accanto al ragazzo. Si guardarono. «Dove vai?» le domandò il siciliano. La ragazza rispose: «A Malta, per Napoli». Poi soggiunse: «Vado a ritrovare mio padre e mia madre che m'aspettano. Io mi chiamo Giulietta Faggiani». Il ragazzo non disse nulla. Dopo alcuni minuti tirò fuori dalla borsa del pane e delle frutta secche. La ragazza aveva dei biscotti. Mangiarono. «Allegri!» gridò il marinaio italiano passando rapidamente. «Ora si comincia un balletto!» Il vento andava crescendo. Il bastimento rullava fortemente. Ma i due ragazzi, che non pativano il mar di mare, non ci badavano. La ragazzina sorrideva. Aveva presso a poco l'età del suo compagno, ma era assai più alta, bruna di viso, sottile, un po' patita e vestita più che modestamente. Aveva i capelli tagliati corti e ricciuti, un fazzoletto rosso intorno al capo e due cerchiolini d'argento alle orecchie. Mangiando, si raccontarono i fatti loro. Il ragazzo non aveva più né padre né madre. Il padre, operaio, gli era morto a Liverpool, pochi di prima, lasciandolo solo, e il console italiano aveva rimandato lui al suo paese, a Palermo, dove gli restavano dei parenti lontani. La ragazzina era stata condotta a Londra l'anno avanti da una zia vedova che l'amava molto e a cui i suoi parenti, poveri, l'avevano concessa qualche tempo, fidando nella promessa di un'eredità. Ma pochi mesi dopo la zia era morta schiacciata da un omnibus, senza lasciare un centesimo. E allora anch'essa era ricorsa al console, che l'aveva imbarcata per l'Italia. Tutti e due erano stati raccomandati al marinaio italiano. «Così», concluse la bambina, «mio padre e mia madre credevano che ritornassi ricca, e invece ritorno povera. Ma tanto mi vogliono bene lo stesso, e i miei fratelli pure. Quattro ne ho, tutti piccoli. Io sono la prima di casa. Li vesto. Faranno molta festa a vedermi. Entrerò in punta di piedi. Il mare è brutto». Poi domandò al ragazzo: «E tu vai a stare coi tuoi parenti?» «Sì, se mi vorranno», rispose. «Non ti vogliono bene?» «Non lo so». «Io compisco 13 anni a Natale», disse la ragazza. Dopo cominciarono a discorrere del mare e della gente che avevano intorno. Per tutta la giornata stettero vicini, barattando tratto tratto qualche parola. I passeggeri li credevano fratello e sorella. La bambina faceva la calza, il ragazzo pensava. Il mare andava sempre ingrossando. La sera, al momento di separarsi per andare a dormire, la bambina disse a Mario: «Dormi bene». «Nessuno dormirà bene, poveri figliuoli», esclamò il marinaio italiano, passando di corsa, chiamato dal capitano. Il ragazzo stava per rispondere alla sua amica: «Buonanotte», quando uno spruzzo d'acqua inaspettato lo investì con violenza e lo sbatté contro un sedile. «Mamma mia, che fa sangue!» gridò la ragazza gettandosi sopra di lui. I passeggeri che scappavano sotto non ci badarono. La bimba si inginocchiò accanto a Mario, che era rimasto sbalordito dal colpo, gli pulì la fronte che sanguinava e, levatosi il fazzoletto rosso dai capelli, glielo girò intorno al capo. Poi si strinse il capo sul petto per annodare le cocche e così si fece una macchia di sangue sul vestito giallo, sopra la cintura. Mario si riscosse, si rialzò. «Ti senti meglio?» domandò la ragazza. «Non ho più nulla», rispose. «Dormi bene», disse Giulietta. Buonanotte, rispose Mario, e discesero per due scalette vicine nei loro dormitori. Il marinaio aveva predetto giusto. Non erano ancora addormentati che si scatenò una tempesta spaventosa. Fu come un assalto improvviso di cavalloni furiosi che in pochi momenti spezzarono un albero e portarono via come foglie tre delle barche sospese alle gru e quattro bovi che erano a prua. Nell'interno del bastimento nacque una confusione, uno spavento, un rovinio, un frastuono di grida, di pianti e di preghiere da far rizzare i capelli. La tempesta andò crescendo di furia tutta la notte. Allo spuntar del giorno crebbe ancora. Le onde formidabili, flagellando il piroscafo per traverso, irrompevano sopra coperta e sfracellavano, spazzavano, travolgevano nel mare ogni cosa. La piattaforma che copriva la macchina fu sfondata e l'acqua precipitò dentro con un fracasso terribile. I fuochi si spensero, i macchinisti fuggirono. Grossi rigagnoli impetuosi penetrarono da ogni parte. Una voce tonante gridò: «Alle pompe!» Era la voce del capitano. I marinai si slanciarono alle pompe, ma un colpo di mare subitaneo, percotendo il bastimento per di dietro, sfasciò parapetti e portelli e cacciò dentro un torrente. Tutti i passeggeri, più morti che vivi, s'erano rifugiati nella sala grande. A un certo punto comparve il capitano. «Capitano! Capitano!» gridarono tutti insieme. «Che si fa? Come stiamo? C'è speranza? Ci salvi!» Il capitano aspettò che tutti tacessero e disse freddamente: «Rassegniamoci!» Una sola donna gettò un grido: «Pietà!» Nessun altro poté metter fuori la voce. Il terrore li aveva agghiacciati tutti. Molto tempo passò così in silenzio di sepolcro. Tutti si guardavano coi visi bianchi. Il mare infuriava sempre, orrendo. Il bastimento rullava pesantemente. A un dato momento il capitano tentò di lanciare in mare una barca di salvamento. Cinque marinai entrarono. La barca calò, ma l'onda la travolse e due dei marinai s'annegarono, fra i quali l'italiano. Gli altri, a stento, riuscirono a riafferrarsi alle corde e a risalire. Dopo questo i marinai medesimi perdettero ogni coraggio. Due ore dopo il bastimento era già immerso nell'acqua fino all'altezza dei parasartie. Uno spettacolo tremendo si presentava intanto sopra coperta. Le madri si stringevano disperatamente al seno i figliuoli, gli amici si abbracciavano e si dicevano addio. Alcuni scendevano sotto nelle cabine per morire senza vedere il mare. Un viaggiatore si tirò un colpo di pistola al capo e stramazzò bocconi sulla scala del dormitorio, dove spirò. Molti s'avvinghiavano freneticamente gli uni agli altri. Delle donne si contorcevano in convulsioni orrende. Parecchi stavano inginocchiati intorno al prete. S'udiva un coro di singhiozzi, di lamenti infantili, di voci acute e strane, e si vedeva qua e là delle persone immobili come statue, istupidite, con gli occhi dilatati e senza sguardo, delle facce di cadaveri e di pazzi. I due ragazzi, Mario e Giulietta, avviticchiati a un albero del bastimento, guardavano il mare con gli occhi fissi, come insensati. Il mare s'era quietato un poco, ma il bastimento continuava ad affondare lentamente. Non rimanevano più che pochi minuti. «La scialuppa a mare!» gridò il capitano. Una scialuppa, l'ultima che restava, fu gettata all'acqua e 14 marinai con 3 passeggeri vi scesero. Il capitano rimase a bordo. «Discenda con noi!» gridarono di sotto. «Io debbo morire al mio posto!» rispose il capitano. «Incontreremo un bastimento!» gli gridarono i marinai. «Ci salveremo! Discenda! Lei è perduto!» «Io rimango!» «C'è ancora un posto!» gridarono allora i marinai, rivolgendosi agli altri passeggeri. «Una donna!» Una donna s'avanzò sorretta dal capitano, ma vista la distanza a cui si trovava la scialuppa, non si sentì di spiccare il salto e ricadde sopra coperta. Le altre donne erano quasi tutte già svenute e come moribonde. «Un ragazzo!» gridarono i marinai. A quel grido il ragazzo siciliano e la sua compagna, che erano rimasti fino allora come pietrificati da uno stupore sovrumano, ridestati improvvisamente dal violento istinto della vita, si staccarono a un punto solo dall'albero e si lanciarono all'orlo del bastimento, urlando a una voce «A me!» e cercando di cacciarsi indietro a vicenda, come due belve furiose. «Il più piccolo!» gridarono i marinai. «La barca è sovraccarica! Il più piccolo!» All'udir quella parola, la ragazza, come fulminata, lasciò cadere le braccia e rimase immobile, guardando Mario con gli occhi morti. Mario guardò lei un momento. Le vide la macchia di sangue sul petto, si ricordò, il lampo d'una idea divina gli passò sul viso. «Il più piccolo!» gridarono in coro i marinai, con imperiosa impazienza. «Noi partiamo!» E allora Mario, con una voce che non parea più la sua, gridò «Lei è più leggera! A te, Giulietta! Tu hai padre e madre, io son solo. Ti do il mio posto, va giù!» «Gettala in mare!» gridarono i marinai. Mario afferrò Giulietta alla vita e la gettò in mare. La ragazza mise un grido e fece un tonfo. Un marinaio l'afferrò per un braccio e la tirò su nella barca. Il ragazzo rimase ritto sull'orlo del bastimento, con la fronte alta, coi capelli al vento, immobile, tranquillo, sublime. La barca si mosse e fece appena in tempo a scampare dal movimento vorticoso delle acque prodotto dal bastimento che andava sotto e che minacciò di travolgerla. Allora la ragazza, rimasta fino a quel punto quasi fuori di senso, alzò gli occhi verso il fanciullo e diede in uno scroscio di pianto. «Addio, Mario!» gli gridò fra i singhiozzi, con le braccia tese verso di lui. «Addio! Addio! Addio!» «Addio!» rispose il ragazzo, levando la mano in alto. La barca s'allontanava velocemente sopra il mare agitato, sotto il cielo tetro. Nessuno gridava più sul bastimento. L'acqua lambiva già gli orli della coperta. A un tratto il ragazzo cadde in ginocchio, con le mani giunte e con gli occhi al cielo. La ragazza si coperse il viso. Quando rialzò il capo, girò uno sguardo sul mare. Il bastimento non c'era più. Fine del mese di giugno.